Siamo al 38esimo e ultimo appuntamento con il centenario di San Pio X. La nostra rubrica con il palinsesto di Blu Radio Veneto va a concludersi proprio con questa ultima settimana di giugno. Ricordiamo che il centenario culminerà sabato 23 agosto con la Santa Messa solenne sul sagrato del Santuario delle Cendrole a Arese Pio X, Santa Messa che sarà presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Monsignor Pietro Parolin, concelebrata dal Vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardini, e da altri Vescovi, sacerdoti di tutta la Diocesi. La presenza del Segretario di Stato di Papa Francesco onora la Chiesa diocesana insieme a tutte le istituzioni ecclesiali e civili nel ricordo di uno dei suoi cittadini più illustri. L'appuntamento dunque culmine è il 23, mentre l'anniversario esatto, la festa liturgica di San Pio X, è il 21 di agosto, ma quello che viene considerato il dies natalis è il giorno prima, cioè il giorno 20, il giorno in cui cade l'esatto centenario. 20 agosto 2014 ci sarà una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di Arese Pio X alle 20:30 e nella festa liturgica appunto il 21 sempre alle 20:30 nella chiesa parrocchiale la Santa Messa con la processione verso la casa natale. Sempre a Arese, ricordiamo, nel mese di agosto, da giovedì 14 a domenica 24, nel salone dell'asilo ci sarà una mostra su San Pio X. L'apertura giovedì 14 agosto alle 17, poi la peregrinazio della statua di San Pio X nelle parrocchie della collaborazione pastorale di Arese Pio X, lunedì 28 luglio, lunedì 4 agosto a Vallà, lunedì 4 agosto a lunedì 11 alla parrocchia di Poggiana, dall'11 al 18 alla parrocchia di Spineda, dal 18 al 20 per culminare appunto col centenario al Santuario delle Cendrole. Si proseguirà poi anche con altre iniziative nel mese di settembre, ad esempio ci sarà il pellegrinaggio triveneto dell'Unità al SID domenica 7 settembre. A proposito di pellegrinaggio, ci sono ancora un paio di settimane abbondanti fino al 15 luglio per le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano a Roma con l'udienza con Papa Francesco. Le date sono dall'8 al 10 settembre, due le formule possibili di tre giorni, quindi dal lunedì 8 a mercoledì 10, oppure quella più breve dal martedì 9 al mercoledì 10. Le iscrizioni entro il 15 rivolgendosi all'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Treviso al secondo piano di Casa Toniolo 0422 576 882. Ancora appuntamenti culturali legati ad esempio alla musica, all'appuntamento culmine che poi porterà alla conclusione dell'anno centenario sarà il 24 di ottobre alle 20:45 nel Tempio Monumentale di San Nicolò a Treviso. Proprio per la cerimonia di chiusura dell'anno centenario sarà eseguito l'oratorio per soli, coro e orchestra di Lorenzo Perosi intitolato La Risurrezione di Cristo, con il coro filarmonico Veneto, l'orchestra regionale Armonia Veneto, direttore Marco Titotto. Diceva Monsignor Giovanni D'Alessi a proposito del motu proprio sulla musica sacra di Papa Pio X che il pontefice, persuaso che base inizio di ogni vera riforma deve essere anzitutto la riforma dell'anima, della vita, dello spirito cristiano, pensò di provvedere prima di ogni altra cosa alla santità e dignità del Tempio, perché è qui che i fedeli si radunano per attingere dalla partecipazione attiva ai misteri della preghiera pubblica e solenne della Chiesa come da sua prima indispensabile fonte il vero spirito cristiano. Questo fatto, dice Monsignor D'Alessi, deve richiamare tutta la nostra attenzione, perché non è il risultato di un momentaneo entusiasmo di carattere puramente estetico, ma frutto di lunghe meditazioni di un uomo che aveva un'ammirabile e intima conoscenza dei bisogni di quei tempi, come dimostra tutto il suo operato di vescovo e di pontefice. Se un pontefice santo come fu Pio X, e Monsignor D'Alessi scrive appena 16 anni dopo la sua morte, ricco di esperienza personale, avendo trascorso tutti i gradi della gerarchia ecclesiastica, appena assiso al soglio pontificio, mentre tanti altri bisogni si imponevano a far rifiorire lo spirito cristiano nella moderna società, stimò opportuno rivolgere la sua attenzione a bandire dal Tempio i canti e i suoni non confacenti con la dignità del culto cattolico, come ad esempio tutte le musiche ispirate alle operette che andavano tanto di moda moda tra fine 800 e inizio 900. La musica per il luogo liturgico deve essere musica liturgica, non deve essere musica profana. Bisogna ben persuaderci della grande importanza della musica sacra nella liturgia della Chiesa come mezzo di rifiorimento della vita cristiana. Questo scriveva appunto Monsignor Giovanni D'Alessi commentando il motu proprio di Papa Pio X proprio relativo alla musica sacra. Molte sono le iniziative anche nelle sue parrocchie, abbiamo citato Tombolo, c'è Treviso ovviamente, c'è Salzano in queste settimane, ci sono ancora due appuntamenti delle iniziative promosse dalla parrocchia, dal locale comitato di iniziative. Venerdì 27 ci sarà il presidente della comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, sul tema i cittadini e la povertà, nuovi orizzonti di coscienza civica e di impegno, e la figura di Papa Pio X offre in questo spunti molto preziosi. L'ultimo appuntamento realizzato dal comune di Salzano della parrocchia in collaborazione con l'associazione culturale Tempo e Memorie per giovedì 3 luglio con Don Flavio Dalla Vecchia, docente di Sacra Scrittura all'Università del Sacro Cuore di Milano, sul tema trasmettere la fede ai giovani. Tutti gli appuntamenti sono alla Filanda Romanine Iacur di Salzano, ore 21, ingresso libero. Altre segnalazioni sul sito ufficiale www.centenariopiox.it. Chiudiamo con la preghiera a San Pio X, che è in due versioni, una versione più lunga e una versione più corta. Io prendo quella più sintetica dal Santino ufficiale del centenario. San Pio X, il Signore ti ha scelto quale pastore universale in tempi difficili per la Chiesa e per il mondo, e tu hai voluto con umile risolutezza rinnovare tutte le cose in Cristo. Aiutaci a riavvivare la nostra fede nel Signore Gesù e a riconoscerlo via, verità e vita. Hai sempre amato intensamente Dio e ti sei speso per farlo conoscere. Aiutaci a dire nel mondo la bella notizia dell'infinita misericordia del Padre, a farci testimoni gioiosi del risorto. Come pastore buono hai condotto la Chiesa alla sorgente viva dell'Eucaristia, aprendone l'accesso anche ai bambini. Aiutaci a farne il centro vivo di ogni comunità cristiana, fonte a cui attingere la dolce forza della carità. Mentre concludevi la tua vita terrena, si accendeva nel mondo un grande conflitto e il tuo cuore gemeva al pensiero di tanta sofferenza. Invoca per tutti il dono della pace, della fratellanza e della solidarietà. Parole attuali, purtroppo anche adesso, perché conflitti ce ne sono tuttora e bisogni anche spirituali. Ce ne sono più che mai anche a 100 anni dalla morte di Papa Pio X.